Allora, stasera vedremo insieme il film documentario realizzato nel 71 da Francesco Lenetti e Arnaldo Pomodoro, che già fu proposto in Cox nel 96, in una versione un po' diversa, più breve di quella che si vedrà questa sera, perché la coppia di stasera è quella che è stata oggetto di restauro da parte della Fondazione Pomodoro. E sulle vicende del film ci parlerà lui. Prima della visione sono previsti altri 3 brevi interventi di Fiorenzo Angoscini, di Pippo Iannacci, un uomo sfortunato perché condivide quasi, a parte una lettera in più, il cognome, però dimostra che un altro Iannacci è possibile. E poi ci sarà la registrazione di un intervento di Gabriele Fuga, che stasera non ha potuto essere presente, però ci teneva molto. E quindi ieri Renato e io siamo andati a casa sua, abbiamo registrato un intervento bello, bello lungo, più di 1 ora e mezza. Stasera ne daremo un breve stralcio e poi l'integrale sarà disponibile sul sito Archivio Primo Moroni. Ecco, nell'apertura della serata pregherei di segnalare con alzata di mano chi intende fermarsi per mangiare, così che ci regoliamo in cucina. Ecco, facciamolo subito. Chi c'è? Chi è bravo con la matematica? Va bene, va bene. Allora, io dirò proprio poco. Perché un po' vorremmo cercare di stare stretti per poi goderci il film, e perché soprattutto ci sono interventi molto, molto forti a seguire il mio. Il film di stasera è un documento dell'epoca, dà un determinato taglio nella visione degli avvenimenti. È uno dei tagli possibili di quelli che allora erano presenti all'interno del movimento, in una grande pluralità e varietà di approcci che oggi si potrebbe anche faticare a capire come riuscissero a stare insieme, ma a rendere ciò possibile era la tensione ideale, innanzitutto la passione delle persone che si erano messe in gioco in movimento, che riuscirono almeno per tutta una lunga fase a fluidificare le situazioni, i rapporti, le idee, a sperimentare questa pluralità di approcci che derivava innanzitutto dal confluire nella situazione italiana, nelle culture politiche del tempo, di un po' tutto il corso storico del Novecento, per come si era dato fino ad allora. Praticamente tutte le culture politiche che avevano attraversato il movimento proletario dalla metà dell'Ottocento in avanti si ritrovavano e si fondevano in un'esperienza di massa nuova che emerge chiaramente da questo documentario. Ci sono delle immagini molto molto belle e forti, lo spezzone del corteo dell'OM e altri spezzoni di manifestazioni, dove nel giro di pochi secondi si coglie però tutta la vitalità di quella presenza in piazza, e al tempo stesso si colgono intrecciati in una maniera che richiederebbe un approfondimento che qui non possiamo fare, le culture politiche di movimento, quelle vecchie, quelle nuove, quelle in divenire, quelle che sarebbero destinate a scomparire, altre a trasformarsi e così via. Ecco, il merito delle situazioni tragiche da cui questo film documentario parte sarà oggetto degli interventi di Fiorenzo, di Pippo e della registrazione di Fuga. Io qui voglio aggiungere soltanto una cosa, cioè che l'intenzione dell'archivio della Calusca e del centro sociale questa sera non è quella di fare dell'archeologia della memoria e della storia politica di movimento. E quindi l'iniziativa che stiamo iniziando è collegata idealmente a un'iniziativa che si svolgerà il 13 dicembre al Centro Sociale Baraonda, che si intitola Friol Antifas e che è dedicata alle vicende che sono note sotto il nome di Ilaria Salis, cioè la repressione degli antifascisti per i fatti di Budapest del 2023. In questa occasione ci saranno interventi dei compagni e degli amici che si stanno occupando di questa vicenda, ma ci sarà anche l'intervento del Comitato Antirepressione che si è formato a Milano e che dedica la sua analisi alle varie situazioni, non soltanto a quelle antifas, ma agli effetti del disegno di legge sicurezza approvato qualche mese fa, alla repressione degli attivisti pro-Palestina che passa in una non sufficiente attenzione, ma è estremamente cospicua e insomma incisiva. E quindi in questo senso il collegamento ideale e politico è forte con le vicende di cui tratta il film, nonostante tutti gli anni passati, ma insomma la cronaca politica ci impone questo collegamento, non fosse altro perché il Presidente del Senato è un tale che si vede bene nelle immagini dei documentari di quegli anni, attivo in Piazza San Babila contro le manifestazioni antimilitariste e poi nelle manifestazioni della maggioranza silenziosa e così via. E il governo è giusto quello che si proponevano le bombe di allora, per cui c'è un collegamento nelle cose, nella storia. Allora i numeri erano molto grossi, come si vede anche i numeri della nostra parte, come si vede anche nelle immagini di questo documentario. Oggi non è così, è un motivo di più per cercare di tenere desta l'attenzione e l'iniziativa. Si parlava prima con Fiorenzo che ne è delle piazze piene del 22 settembre, dove sono andati a finire tutti quei ragazzi scesi in strada. Lui era un po' più sul negativo, io come sempre più sulla vabbè dai, diamoci dentro. Ero sul deluso. Sul deluso. Io dicevo è troppo presto per essere deluso, diamo tempo al tempo e facciamo quello che ci riesce per aiutare chi ancora vuole manifestare la propria alterità rispetto all'ordine delle cose esistenti. Ecco. Io ho finito. Parla del film, Federico. Grazie. Grazie per questa introduzione. Diciamo, il film l'abbiamo presentato, abbiamo presentato il film restaurato come Fondazione Araldo Pomodoro circa un mesetto fa in Ulm, in un contesto completamente differente, e quindi mi fa anche diciamo piacere che oggi rivediamo il film in questo contesto qua, appunto, quindi in un luogo dove questo film qua non è semplicemente il documento di un momento storico, di una sensibilità politica, estetica di quel tempo lì, ma è possibilmente il pezzo di una cosa che è ancora viva, che io mi auguro sia ancora viva, e non sarei così, diciamo, cinico deluso. Anche a me ha fatto impressione, anche guardando le immagini di questo filmato qua, rivedere delle piazze così, diciamo piene, partecipi. Non voglio fare un dibattito. E neanche il bastian contrario. Io a Brescia ho vissuto nei mesi scorsi, come diceva Robertino, manifestazioni che se non erano di 30.000 erano di 25.000 persone. Venerdì lo sciopero dei sindacati di base si era in circa 500 scarsi. E questo, da lì queste mie delusioni, chiamiamole così. Scusate, certo, se ho fatto questo brevissimo inciso. Non so, il tempo ci dirà, no? Io diciamo quello che vorrei dire è semplicemente appunto che quello che state per vedere dopo gli interventi è appunto un film che è stato realizzato fra il 70 e il 71 da un collettivo che era il collettivo della rivista Che Fare, che è questo, diciamo, bollettino che era edito da, diciamo, diretto da un collettivo di cui facevano parte Francesco Leonetti, Arnaldo Pomodoro e altri. Ed era un bollettino di avanguardia che aveva l'intenzione appunto di diffondere in Italia una serie di contenuti di controinformazione e di cultura che loro percepivano appunto non circolassero in quel periodo lì, fra il 67 e il 72. A un certo punto il collettivo si mette a lavorare a un film. Il momento in cui lo fanno è praticamente mentre comincia il processo che Calabresi intenta a lotta continua nella persona di Pio Baldelli, che era il direttore. Diciamo il film che loro fanno è un film, appunto, come poi vedrete anche dai cartelli iniziali del film stesso, che dichiarano qual è lo scopo. Lo scopo è quello appunto di in qualche modo dare una visione non allineata a quello che si poteva leggere allora sulla stampa di ciò che era quel processo in atto, e lo fanno andando anche in presa diretta in aula, perché vedrete una serie di sequenze che furono girate in aula grazie a una piccola telecamera nascosta che fu possibile introdurre anche perché Carla Cerati, che faceva parte del collettivo, era una fotografa autorizzata a scattare le foto in aula, e quindi come dire, ci fu anche la possibilità di effettuare queste riprese. E il film non è propriamente un documentario, nel senso che si propone di essere un film militante e sperimentale, cioè un film che vuole avere una linea politica che gli autori nelle loro intenzioni definiscono rigorosa, quindi direi dare una certa visione di ciò che stava succedendo, ma dall'altro anche di essere come forma, come linguaggio, un film non propriamente documentaristico, ma un film in cui la presa diretta, la parte documentaria in aula, nelle manifestazioni, si unisce a tutta una parte recitata, di messa in scena, che ha appunto nelle loro intenzioni lo scopo di chiarire in qualche modo che cosa stava succedendo, come di interpretare quello che stava succedendo. E infatti, diciamo, è anche quando l'abbiamo presentata alla IULM, a un certo punto abbiamo ragionato insieme con chi parlava sul palco e il pubblico sul senso del titolo del film. Processo politico è un po', diciamo, il processo al processo, è mostrare qual è il processo della politica in quel momento lì, quindi, come dire, anche il titolo in qualche modo contiene un suggerimento su quello che è il senso di questo film qua. Il film fu recepito all'epoca molto male, questo va detto, perché fu presentato in un paio di festival a Pesaro e a Porretta e le recensioni, il pubblico non fu compreso l'intenzione e la forma, ma gli autori, a seguito anche di queste critiche qua, confezionarono poi una versione in qualche modo chiarificata, cioè in cui gli intenti fossero più chiari, con l'aggiunta di una serie di cartelli, di spiegazioni nel voice over che spiegassero che cosa il pubblico stava vedendo, e questa versione in qualche modo finale, che era, diciamo, era in qualche modo passata attraverso la prova del fuoco della critica e del pubblico, è la versione che vediamo stasera. Leonetti poi racconta che la pellicola fu chiesta in visione forse da dei finti club, si perse in qualche modo, lui sostiene che fu rubata, e a un certo punto però, recuperando le pizze di lavorazione del film, che erano ancora custodite nell'archivio di Arnaldo Pomodoro, nel 95 riconfezionò una nuova versione un po' più breve, che è quella appunto che fu proiettata nel 96 alla Calusca, che già si trovava qua, che è il motivo per cui poi noi siamo stati, diciamo, molto contenti di questo invito a riproiettarla qua e a riparlarne qua. Basta, il film poi appunto la fondazione appunto ha per l'ennesima volta recuperato e riscoperto queste pellicole qua, e poi grazie anche al preziosissimo contributo di On Movies, che è l'archivio nazionale del film di famiglia di Bologna, ha potuto fare poi un'operazione di restauro e di digitalizzazione. Mi sembra di aver detto tutti gli elementi importanti per contestualizzare, per cui, diciamo, lascio la parola a chi può diciamo commentare e raccontare meglio di me poi la situazione viva che si vede e di cui il film parla in qualche modo. Grazie. Iannacci spacca tutto. Breve però, eh? Brevissimo. Le provocazioni sono sempre tante, perché naturalmente parlando di un film come questo mi divertivo con le macchinette che usano oggi tutti i bambini, e è assolutamente impossibile o molto difficile arrivare alle informazioni di ciò che è stato prodotto, la controinformazione, cioè tutto quello che è stata la battaglia per conoscere come realmente andavano le cose e come realmente erano andate le cose a fronte di magistrature, inquisizioni di vario genere, di vario tipo, e apparati di vario genere e di vario tipo, che oggi, a distanza di 50 anni, cominciano ad essere in qualche maniera delineati. E parto da due figure, perché uno si chiama Giordano Fainelli, è un funzionario di pubblica sicurezza che stava a Milano ed era presente in questura il 12 dicembre e i giorni successivi, che è venuto a portare una sua interpretazione delle vicende di allora. Poi vi spiegherò che percorso ha fatto questa persona, 81 anni in questo momento. La sua versione è che Pinelli, Valitutti erano trattati come di famiglia, li portavano a mangiare di fronte al ristorante, no? Pagavano loro di tasca loro, poliziotti, no? L'alimentazione di questi prigionieri e di questi trattenuti, e dopodiché lui era fuori servizio, rientra, c'è Mainardi, che è uno dei cosiddetti quattro della stanza, che arriva giù di corsa e dice: Pinelli è scappato. E l'interpretazione di questo Fainelli, grande Fainelli probabilmente da Faina, è quella che Pinelli aveva cercato di lanciarsi sul tetto dell'edificio adiacente dalla stanza di Calabresi, al che ovviamente uno dice: va bene, bisogna avere anche un bel coraggio per dire alcune cose. Lui fa il paro con un altro personaggio che si chiama Gian Adelio Maletti, defunto, il quale diceva che Pinelli era caduto dalla finestra sedendosi sul balcone. Tutte le perizie e tutte le fotografie dicono che la stanza di Calabresi aveva una ringhiera sottilissima, altezza 90 cm, 88, no? Dove un Marcantonio come il Pino poteva essere spinto fuori in qualsiasi modo e in qualsiasi condizione. L'altra persona di cui vi voglio parlare, allora, il Fainelli da Milano viene promosso sul campo e entra, qui arriviamo già al 74, nei nuclei di antiterrorismo che sostituiscono o compensano il cosiddetto scioglimento degli affari riservati, fermo restando che nella sua narrativa si scopre che Russo Manno, che è uno dei capi supremi degli affari riservati, andava a visitare regolarmente a Verona il capo della squadra mobile di Stasio, che era in qualche maniera il capo di questo Fainelli, il quale a sua volta era anche titolare dell'antiterrorismo di tutto il nord-est. Allora qui si capisce che gli affari riservati non sono mai stati sciolti, si capisce che i nuclei antiterrorismi dalla Chiesa hanno ereditato tutta una serie di funzioni e di attività, e questo personaggio finisce nella sua narrativa ad essere uno di quelli che sfondano nel covo delle BR per liberare Dozier, raccontando scene anche abbastanza comiche alla commedia all'italiana, dicendo che i brigatisti erano stati allarmati dal fatto che uno dei poliziotti nostri, Knox, che intervenivano lì, era inciampato nei gradini, gli era partito un colpo di pistola prima ancora di entrare, per cui li avevano trovati con le armi appoggiate lì e le mani alzate. Questi sono i personaggi con cui noi abbiamo avuto a che fare per un arco lungo di tempo, perché erano addetti alla sicurezza ed erano personaggi che appartenevano a strutture la cui comprensione risulta ancora oggi poco definibile. Dico questo perché la questione degli affari riservati e quindi la costruzione della strage di Piazza Fontana è una cosa che parte il 18 aprile del 69 con il viaggio di Rauti e i contatti e le gestioni di Giannettini che predispongono che il gruppo Veneto, che poi ha fatto anche la strage di Piazza della Loggia, fosse in grado di preparare quel clima di tensione per il quale la strage di Piazza Fontana avvenuta a Milano aveva già i suoi responsabili, Valpreda in testa, perché era il personaggio, tra virgolette, più pubblico, fotografato più volte nelle manifestazioni e quindi immediatamente percepibile a livello di massa, quindi a livello di comunicazione, come il fanatico fuori di testa, eccetera, eccetera. Vi faccio un piccolo aneddoto. Il Valpreda era a Roma perché lavorava come ballerino, cercava ingaggi, incrocia la come si chiama, la grande ballerina, la Fracci, la Carla Fracci, e dice: ma potresti trovarmi un posto di lavoro così nella Rai? E questa bozza, quando poi avviene la strage di Piazza Fontana, la Fracci si rivolge al marito e dice: ma senti, ma è strano, dice, ma questo mi chiede un posto di lavoro alla Rai, è a Roma, ma cioè, come può essere uno delle persone? Dice: ah, non dice marito, non preoccuparti, conosco un grosso funzionario, vado a parlargliene. E il funzionario era Russo Manno, e il quale dice: no, di alla Carla assolutamente che non deve accennare minimamente al fatto che Valpreda cercava un lavoro, perché noi abbiamo un'immagine di Valpreda spostato, fuori di testa, che mette le bombe. Peraltro, sulla questione di Piazza Fontana, io ho una mia piccola tesi, perché Mariani è l'avvocato di Pietro Valpreda, lo chiamano al telefono, si sente, dice: guarda che devi venire su a testimoniare, perché questi qui, se tu non testimoni, da testimone passi ad imputato per i famosi attentati della primavera del 69. Anche quello prende la 500, sale, arriva a Milano, va a dormire dalla zia con un febbrone da cavallo, e non può essere l'autore della strage perché fisicamente è a letto completamente debilitato. E guardate che ci sono anche delle coincidenze di date, perché nel momento in cui il Pinelli viene buttato alla finestra è esattamente la sera, e il giorno dopo c'è l'articolo di Marco Nozza, che era andato dalla zia di Valpreda e ha detto: ma signora, ma ha sentito qualcuno? Perché se Valpreda è venuto da Roma ed è venuto a Milano, è venuto qui, c'aveva, cioè, no, chiamala di rimpettare, dice: ma non l'ha sentita qualcuno? Nessuno mi ha sentito, perché la costruzione era il Valpreda responsabile della strage. E qui si arriva alla questione nodale, che poi in qualche maniera ha sviscerato Paolo Morando e anche altri, e cioè che gli affari riservati, avendo predisposto l'intera macchina accusatoria del predestinato, una sorta di Lee Oswald tipo attentato John F. Kennedy, no? Che è poi una tesi che riprende anche la Stefania Limiti, gestiva tutto, e questi sono venuti a Milano con tutto lo schedario che avevano a disposizione degli anarchici, che diversamente, so che è una tesi ardita, avrebbero utilizzato a Roma qualora il responsabile, cioè il Lee Oswald, fosse restato a Roma. E quella sera gli attentati sono stati fatti a Roma e a Milano, e la scelta dell'esplosivo e dell'ordigno che fa strage, vi voglio dire che da tutte le perizie è ormai chiaro che gli ordigni che hanno fatto le stragi sono ordigni di classe A, gli altri B, C, D, cioè quello deve fare la strage, e era ineluttabile. Quindi questi vengono su e egemonizzano l'intera questura, cosa che si è saputa solo in epoca recente. Ora, all'interno delle questure, quindi nel personale che svolgeva le attività, diciamo così, di sicurezza, c'erano appunto personaggi come quel Fainelli che vi ho detto, ma c'erano anche personaggi, perché è arrivato dopo qui alla questura di Milano, o, scusate, non alla questura, al nucleo investigativo di Milano, questo Antonio Plattarotti, che è un protagonista dello scoprimento del NASCO 503, quello che teneva l'esplosivo, se non proprio l'esplosivo, sicuramente l'accenditore a strappo che ha determinato la strage di Peteano, che era stato utilizzato nel cofano della 500, dove erano stati attirati i carabinieri dal gruppo di Vinci Guerra, lui, Vinci Guerra, Vincenzo, quello che è ancora dentro, per sua volontà, il fratello gemello e la sorella, più l'altro gruppo. Ora, questo Plattarotti è responsabile, un dirigente della sezione di Aurisina dei Carabinieri, la tenenza dei Carabinieri di Aurisina. I verbali che riguardano quel di scoprimento, quella scoperta, sono tre serie di due verbali fatti in tempi diversi. Il Plattarotti è quello che firma quelli che poi verranno consegnati alla magistratura e verrà imputato poi da Casson, da Felice Casson, per una falsificazione degli atti, perché era chiarissimo che gli atti erano stati falsificati. Questo Plattarotti la sfanga, nel senso che viene assolto dall'imputazione, lo si ritrova a Milano come collaboratore di Francesco Delfino, il quale dice: ah, ma sì, ma io mi appoggiavo di una persona di assoluta fiducia, che era questo Antonio Plattarotti, e lo troviamo poi nell'84 in Venezuela a catturare delle chiaie per portarle in Italia. Allora, voi vi rendete conto che vi ho raccontato le storie di due personaggi, come di tanti altri di questi personaggi, perché poi le storie che vi ho raccontato hanno intorno decine di altre questioni e non sto qui a tediarvi, e sono anche complesse da ricostruire. Ma questi passaggi, dici, ma come questa persona che tutto sommato, non dico non era di valore, ma insomma sicuramente in una cosiddetta polizia o istituzione normale non dovrebbe, e sono tutti ovviamente con progressioni di carriera, né? Attenzione, perché tutti questi passaggi non è che uno è brigadiere, no, diventa poi tenente, ufficiale, generale, eccetera. Questo è un passaggio importante perché nei documenti come questo filmato, i documenti dell'epoca, le pubblicazioni dell'epoca, noi queste cose le troviamo, cioè le rileggiamo adesso, se le rivediamo con l'occhio di adesso, diciamo, per la miseria, ma le avevamo a contatto di pelle, cioè erano quelle cose che noi percepivamo. Pasolini, giusto appunto, che fece un film sul 12 dicembre, perché fu sua l'ispirazione, dove c'era Gian Maria Volonté, registi, eccetera, diceva: io so, ma non ho le prove. Ma erano le percezioni che avevamo all'epoca di una situazione che era sostanzialmente anomala. Quindi c'era l'aspetto repressivo, c'era l'aspetto di contrasto di tutte le forze sociali, progressiste, eccetera. Però c'era anche questa struttura, questa organizzazione, questo insieme di cose, per cui tu vedevi gli stessi personaggi che comparivano nelle situazioni più differenti. Osservazione che ho fatto sulla questione degli affari riservati. Gli affari riservati erano capitanati da Federico Umberto D'Amato. Io sono stato tra i primi ingenui a dire: vero, è stato sciolto perché il 31 di maggio del 74, dopo la strage di Brescia, le reazioni popolari, e quindi vengono sciolti gli affari riservati e vengono formati questi nuclei antiterrorismo di Santillo. Tutte le evidenze oggi ci dicono che non solo non sono stati sciolti, ma hanno proseguito la loro attività fino agli anni 90. Cioè l'attività di Federico Umberto D'Amato è l'attività di un soggetto che, avendo portato con Jimmy Angleton Junio Valerio Borghese da Milano a Roma per metterlo in sicurezza prima che qualcuno gli sparasse e poter gestire la struttura della cosiddetta ex decima mas in conto americano e per conto americano, è una persona che poi si trova a capo permanentemente per un periodo di 50-60 anni di una struttura parallela inserita nella struttura del Ministero degli Interni e delle Questure, quindi con una presenza territoriale su tutta la nazione, controllata dalla CIA, controllata dagli apparati di sicurezza americani. Quando scoppia la bomba del 2 agosto del 1980, i compagni di Bologna, i democratici, hanno cominciato a percorrere un determinato itinerario, Fioravanti, Mambro, Cavallini, Ciavardini, Bellini, che è l'ultimo passaggio, tutti ormai passati in Cassazione, quindi tutti chiusi in Cassazione, dove il finanziamento di Gelli veniva portato agli esecutori della strage attraverso un gruppo, un nucleo di soggetti a Roma: Federico Umberto D'Amato, Mario Tedeschi, altro intimo amico di Angleton, cioè si sta parlando del controspionaggio americano, della struttura di intelligence americana, va bene, i capi dei servizi di sicurezza, tale Di Nunzio, che il cui fratello operava come commercialista negli Stati Uniti, quindi collegamento proprio operativo diretto, ed è stata accertata anche questa circostanza, e cioè che Federico Umberto D'Amato è uno dei mandanti delle stragi ed è uno dei capi, ed è stato ufficialmente il capo, e se ne vanta, cioè fondatore di tutta una serie di strutture di sicurezza. Allora, rianalizzare il ruolo e la funzione degli affari riservati rispetto a quello che già noi percepivamo all'epoca è analizzare una struttura che era istituzionale ma non lo era, cioè era esattamente il braccio operativo ed informativo degli americani. L'altro braccio operativo ed informativo è quello che ci dice il generale, dimmi nome, che non me lo ricordo più, Emanuele Borsi. Bravo, grazie. Emanuele Borsi, prego. Di Parma, il quale dice: noi, io ero comandante della terza armata, che poi fu sciolta nell'agosto del 74, non a caso, perché le date poi coincidono tutte, e questa struttura doveva, insomma, se c'erano i cosacchi che arrivavano, no, noi dovevamo fermarli. E dice: questa struttura si appoggiava a una rete informativa, passava attraverso l'esercito, il SIFAR, e era quella di Ordine Nuovo, che era il braccio informativo ed operativo degli americani della NATO. Cioè gli americani controllavano la operatività e l'esecutività di Ordine Nuovo. E noi non solo abbiamo la strage di Piazza Fontana, e quindi con tutta la costruzione mediatica e tutta la costruzione di depistaggio e tutte le operazioni intorno a Piazza Fontana, ma abbiamo a Brescia, e a Brescia viene Maurizio Tramonte, che è un uomo dei servizi di sicurezza italiani, cioè è a diretto contatto, è stipendiato, gestito da Felli e Bottallo, che sono i responsabili del centro CS di Padova. Quindi Ordine Nuovo è un braccio esecutivo degli apparati americani. L'inchiesta di Brescia, adesso, gli ultimi due fasi dell'inchiesta di Brescia, puntano alla caserma di Parona di Verona, caserma della NATO, dove alcuni soggetti, Silvio Ferrari, si recavano nella predisposizione degli attentati che poi porteranno, Silvio Ferrari salterà prima sulla sua motoretta, porteranno alla strage di Brescia. Ed è proprio il generale che racconta di Ordine Nuovo e dice: sì, ma questi avevano un addestramento americano, si muovevano su istruzioni ed indicazioni della NATO con comando a Verona, alla caserma di Parona. Cioè, quindi i cerchi cominciano a chiudersi, e nel momento in cui si chiudono i cerchi, e qui arrivo anche alla questione Calabresi, Calabresi fu attirato e tirato su quel nasco 503, perché c'era un funzionario di polizia che era stato coinvolto, non mi interessa, ma fu proprio, come dire, il disvelamento di una serie di collegamenti e di situazioni che doveva essere poi coperto da un grande processo. Quindi tutto è legato alla comunicazione. Le stragi, il terrorismo sono strumenti di comunicazione e di propaganda, e non a caso tutte le articolazioni militari e tutte le operazioni militari che noi abbiamo visto in Italia si sono, tra virgolette, spente nel 94, quando Berlusconi prende con Mediaset il controllo di tutto il sistema di comunicazione, che è quello al quale fanno riferimento anche i nostri bambini. Mi fermo perché altrimenti... Grazie. Grazie Pippo. Prima ho tralasciato di dire che Pippo collabora e anima la Casa della Memoria di Brescia, che ha un profilo e svolge un'attività ben diversa da quella di Milano, è molto più interessante a mio avviso. È un maggiore sviluppo delle cose che ha accennato poco fa, lo si può ascoltare nella registrazione dell'incontro che fu fatto qui nella ricorrenza della strage di Piazza della Loggia. Quindi sul blog di Conchetta potete sentire Pippo più estesamente. Adesso manderemo il primo stralcio della registrazione di Gabriele Fuga, poi l'intero, come vi ho accennato, si potrà ascoltare sul blog, e una clip di Federico Umberto D'Amato, che forse conoscete, quella del vecchio D'Amato che maneggia l'automa, che è molto breve ma significativa e divertente. Esatto, va bene, Tommaso puoi mandare, e poi adesso Renato viene qui a sostituirmi, io vado in cucina e poi ci vediamo dopo. La domanda era se già allora si poteva capire che c'erano, che l'ufficio affari riservati aveva ripreso in mano la gestione tutto quello che girava intorno a Piazza Fontana, oppure se siamo riusciti ad avere queste informazioni soltanto al momento del ritrovamento degli atti della Via Appia. E la mia risposta è che proprio nel processo Piobaldelli Calabresi c'erano già delle indicazioni che potevano far pensare alla presenza dell'ufficio affari riservati a Milano, e qui mi riferisco proprio a quella testimonianza che noi riportiamo, la testimonianza di questo agente, giovane agente di polizia, che si chiama Caffarelli. Perché dico questo? Perché proprio il 12 novembre 1970, udienza nel processo, viene interrogato questo agente di polizia Caffarelli, il quale, a domanda del giudice, che era Biotti, gli chiede chi vide dentro. Allora lui dice di, a un certo punto nella serata, nel pomeriggio, tardo pomeriggio, di essere entrato nella stanza di Calabresi. E gli chiede chi vide dentro, e lui dice: ricordo che c'era il brigadiere Panessa, Mucilli e altri tre carabinieri che non conosco. E qui il punto: lui parla di tre carabinieri, chiaro, lui è un giovane, probabilmente era di leva, da quello che ho capito. Lui era un giovane poliziotto che lavorava all'ufficio politico, e vede tre persone che non conosce e quindi ipotizza che siano carabinieri, anche perché un carabiniere veramente c'era, che era Locrano. Però nel momento in cui dice vidi tre carabinieri che non conosco, è chiaro che ci si sarebbe aspettati da parte o del tribunale o anche dei difensori di Pio Baldelli un approfondimento chi fossero queste persone, e guarda caso sono proprio quello che poi noi abbiamo cercato di ricostruire, sono proprio tre dell'ufficio affari riservati. Allora ricordo che c'era il brigadiere Panessa, Mucilli e altri tre carabinieri che non conosco. Interrogazione è riferita al 15 dicembre, cioè alla sera del 15 dicembre, dato che nell'intervista lui lo dà un po' per scontato, ecco, solo quello. Cioè quello di cui parla Fuga adesso è la sera del 15 dicembre, in Milano. Eravamo vicini alla mezzanotte o no? Molto prima. Potevano essere le 9:30, le 10, quindi lui identifica in quell'orario. E qui la domanda importantissima: chi interrogava? Questo non lo ricordo. Ora, tieni presente che siamo a mezzanotte, non è che adesso. Cosa significa questo non lo ricordo? Significa due cose. Che sicuramente non interrogava Calabresi, perché Calabresi era il suo capo, e siamo all'ufficio politico, al quarto piano, lui lavora lì, e quindi Calabresi sa chi è. Siamo nella stanza di Calabresi, quindi non può dire non ricordo se era Calabresi che interrogava, a parte che non lo mette tra i presenti. Ricordiamoci il passaggio di prima. Prima dice c'era il brigadiere Panessa, Mucilli e tre carabinieri. Quindi non mette Calabresi e non interroga Calabresi. Ora, se interrogasse Panessa o Mucilli, a parte che non ne avevano né il livello né la capacità di interrogare, vuol dire che chi interrogava era uno dei tre carabinieri. E su questo non c'è dubbio che non era Calabresi. E quindi, ecco, abbiamo un estraneo nella struttura milanese che sta interrogando Pino Pinelli. Quindi un approfondimento già allora di questo punto cruciale avrebbe portato sicuramente qualche risultato molto molto prima di quello che abbiamo fatto poi Enrico ed io, se fosse stata collegata alla già sicura presenza di Catenacci e appunto all'anomalia che non soltanto erano presenti, ma che, facendo l'induzione che abbiamo fatto prima, che a interrogare quella sera fosse uno dell'ufficio affari riservati, probabilmente saremmo arrivati a una verità molto molto prima. Il paradosso è che le prove della responsabilità della struttura, chiamiamola ancora Stato per modo di dire, nella morte di Pino, erano già emerse allora, perché le altre due testimonianze sono gli altri due poliziotti, ripeto, che sono i due piantoni di Valitù. Poco prima della mezzanotte, dunque loro avevano il turno fino a mezzanotte, dovevano arrivare altri due che dovevano sostituirli, i due che dovevano sostituirli arrivano poco prima della mezzanotte e quindi loro chiedono se è possibile alla responsabile, lo fanno anche il nome adesso, poi magari lo cerchiamo, se possono andarsene via prima, e gli viene consentito e quindi entrambi escono uno dopo l'altro, non insieme, col famoso ascensore Quindi vediamo adesso cosa chiede il giudice a questo Serenelli. Chi era il collega che doveva sostituire? Non lo so, non mi ricordo. Io vidi i colleghi che entravano, chiesi se facevano la notte. E vide entrare il dottor Calabresi nella stanza del dirigente. No, questo è stato prima. Erano le 23:30, su per giù. Non so, pochi minuti in più o meno. Che cosa avvenne dopo che il dottor Calabresi entrò nella stanza del dottor Allegra? Niente. Io restai nello stanzone, stetti ancora con il Valitutti, stetti lì e guardavo il Valitutti e verso mezzanotte arrivò il cambio. Verso mezzanotte arrivò il cambio. Chiese al brigadiere di riserva se poteva andare via e lui mi disse va bene, mi salutò. Io presi l'ascensore, invece dallo stanzone, a sinistra, prendo l'ascensore. Appena si aprì l'ascensore, arrivato a pian terreno, vidi un tenente dei carabinieri che gridava si è buttato, si è buttato. Primo punto. Non è ancora mezzanotte. Lui, un minuto, due minuti, con l'ascensore scende giù, esce l'ascensore e vede Lograno. Questo significa due cose. La prima, che Pino è caduto prima della mezzanotte. Ricordiamoci la storia dell'orologio, che la chiamata dai vigili risulta prima della mezzanotte, però è stato sempre ritenuto che fosse, non c'erano gli orologi attuali, che fosse un errore, fosse indietro quell'orologio, perché è sempre stato detto da tutti gli altri testimoni, poliziotti importanti anche in quel processo, che tutto è successo dopo mezzanotte. E invece abbiamo da questa testimonianza che questo succede prima della mezzanotte Pino è già in terra, ma soprattutto che prima della mezzanotte Lograno è già giù. E questo è importante perché, poi lo vediamo, vuol dire che tutta la sceneggiata si è buttato, che escono dalla stanza in corridoio, che gridano, eccetera, non è avvenuta dopo la mezzanotte. Cioè è avvenuta la sceneggiata dopo la mezzanotte, ma a un intervallo di tempo notevole, anche se sono questioni di minuti rispetto alla caduta. Perché andiamo avanti. Che cosa avvenne? Si è buttato di lato. Oltre al tenente del carabinieri, chi c'era lì? Non ricordo, vidi, notai il tenente, mi sembra che c'erano altre persone insieme a lui. Quando è tornato da casa Pinelli ed è entrato nel salone, ha sentito qualcosa di anormale? No, nessun rumore, tutto normale. Cioè lui torna, ci colleghiamo pure a quel punto iniziale, vidi pure il Calabresi che entrava perché era appena tornato da casa di Pinelli. Questa testimonianza ci mette Calabresi alle 11:30, che entra nella stanza di Allegra, mettendo insieme la testimonianza di Valitutti che non è passato davanti a lui, vuol dire che Calabresi arriva da sinistra e quindi Valitutti può non averlo visto. Ma poi ci dice che fino a quel momento non aveva sentito niente, nessun rumore, nessun grido, nessuna gente che usciva e andava. Ricordiamoci a questo punto invece la versione ufficiale. La versione ufficiale dice che dopo la caduta, dopo un attimo di smarrimento, tutti escono in corridoio, si mettono a gridare e in quel momento Lograno scende, secondo la versione ufficiale. Da questa testimonianza invece abbiamo che Lograno è sceso, era già giù, senza che nel frattempo fosse stata nessuna grido, nessuna sceneggiata, usiamo questo termine, al quarto piano. Ma andiamo avanti, perché questa testimonianza è confermata dall'altro, perché i piantoni erano due, che è tale Giovanni Di Stefano. e quando ho sentito il tenente dei carabinieri giù che cercava aiuto, insomma diceva di qua, sono andato lì, ma ho visto già tutta la gente intorno. Allora, anche questo ci dà questa conferma, due conferme, che il clamore prima della mezzanotte non c'è stato, che però Pino era già caduto e che Lograno era già giù. Allora, tutte queste testimonianze, riunite anche a quella che abbiamo visto prima di Caffarelli, se fossero state un pochettino approfondite, avrebbero sicuramente aiutato molto già allora. Questi pupazzi, questi che i francesi chiamano automat e che noi chiamiamo automi, da automatos, cioè movimento automatico, e sono appunto questo tentativo di dar vita a un movimento, di dar vita a una vita che non esiste, ma che tuttavia appare nella sua immobilità e nel suo movimento, come lei vedrà, deliziosa. Qui ci troviamo con un automa che in fondo riassume un po' il nostro argomento. Direi che questo è l'automa della politica, questo è il giocoliere, le jongleur. Cosa io? Sì. Velocissima su quello che ha detto Gabriele. E l'elemento di conferma della responsabilità di Pinelli era dato dal fatto che aveva firmato, sottoscritto, queste sono le cose sempre di polizia, i fogli di viaggio che lui avrebbe effettuato nel periodo in cui erano stati messi le bombe sui treni nell'estate, nell'agosto del 69. Noi abbiamo avuto Brescia come testimone, non in questo processo, quello precedente, Gianni Casalini, La Fonte Turco, con CS di Padova, ordinovista, il quale ha ammesso candidamente di essere una delle persone che all'interno del gruppo Frede Ventura avevano collocato le cassette con l'esplosivo. Quindi siamo alla ripetizione sistematica della sceneggiata, le jongleurs, no? Degli attentati sui treni, certo, che imitavano, riproducevano gli attentati del 67 fatti sugli autobus dei cosiddetti irredentisti altoatesini, li aveva messe Umberto Tazio Poltronieri / Umberto Mazziotti dell'Aginter Press, perché lavorò poi in Portogallo. Quindi siamo veramente alle jongleurs, cioè siamo al gioco delle parti in cui poi tutte le forme vengono manifestate verso l'esterno, ma dove poi a un certo punto le persone raccontano le cose forse senza neanche rendersi conto di come andavano incastrate fra di loro. Adesso ascoltiamo l'intervento di Fiorenzo. Cercherò di essere ovviamente breve, quindi didascalico necessariamente, perché già le cose dette da Pippo sono state esaustive. come lui ha sottolineato al termine del suo intervento, ci sarebbe moltissimo da dire, ma siccome non vogliamo tediarvi, è meglio essere brevi. Avete sentito anche dall'intervento di Pippo, che ha citato spesso l'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, ha descritto cosa fosse e cosa facesse. E il film di questa sera è relativo al processo Baldelli, lotta continua Calabresi, ed è una conseguenza diretta della strage di Piazza Fontana e del volo di Pinelli dalla finestra della questura. Come si è arrivati e perché e come alla determinazione e alla volontà di questo? Pippo adesso l'ha sottolineato, ci sono stati gli attentati dei treni dell'8-9 agosto, una decina di attentati tra Milano, Brescia e il Veneto, le bombe dell'aprile. L'attività della squadra 54 di Alduzzi di Milano, dell'ufficio affari riservati, non la ripercorro perché è già stata benissimo documentata e raccontata nel libro di Gabriele Fuga e Enrico Maltini, Pinelli, una finestra ancora aperta. Però mi voglio soffermare su due aspetti di quella che è stata, solo due, non moltissimi, l'attività dell'ufficio affari riservati, ed è relativa alla cosiddetta operazione dei manifesti cinesi e al gruppo 22 marzo di Roma, che poi gruppo 22 marzo di Roma non era uno, bensì due, uno successivo all'altro. Vincenzo Vinciguerra, responsabile e confesso della strage di Peteano, insieme ad altri ordinovisti, uno dei quali era anche segretario di una sezione del MIS di San Giovanni e Natisone, quindi la commistione fra questi personaggi, gli affari riservati e anche il SID è continua e costante. Vincenzo Vinciguerra sostiene: indico in questa operazione il primo momento concreto dell'avvio della strategia della tensione. Si riferisce all'operazione dei manifesti cinesi. Personalmente io non condivido il termine, anche se è stata una fortunata determinazione giornalistica, strategia della tensione, perché secondo me negli anni 50 e 60, perché di questo poi cercherò di darvi alcune informazioni e alcuni aspetti, cercherò di trattare alcuni aspetti, non è stata neanche una cosiddetta guerra civile a bassa intensità, perché non c'erano due contendenti, anche se da una parte un esercito e dall'altro dei ribelli, tra virgolette, ma è stata una vera e propria guerra che lo Stato ha cercato di pianificare con metodo. Questa dei manifesti cinesi rientra proprio in quella strategia, che comprendeva anche la guerra psicologica, far apparire una cosa che invece è diversa da quella che in realtà è. E vi ho detto prima che ci sono, secondo me, questa strategia, questa pianificazione è iniziata molto prima. Vi faccio solo il cenno di Portella della Ginestra, 1° maggio 1947, quando l'organizzazione americana, che poi l'OSS, che poi diventerà CIA, insieme a Valerio Borghese e alla banda Giuliano, ha compiuto la strage ai danni dei lavoratori che festeggiavano il 1° maggio. Sintetizzo molto, tralascio Melissa, Avola, Battipaglia, e arrivo al 57. Un fatto che mi ha incuriosito e che cerco sempre di ricordare. Nel 57, nell'autunno, settembre-ottobre, nella serenissima Repubblica di San Marino, si è compiuto un colpo di Stato militare, attuato dalla Democrazia Cristiana sammarinese, con l'appoggio della Democrazia Cristiana Italiana, è voluto, richiesto e spinto dagli Stati Uniti d'America. Nel San Marino dal 45-47 le elezioni venivano vinte sistematicamente da una coalizione di sinistra, Partito Comunista e Partito Socialista. La piccola Repubblica del Titano aveva intessuto rapporti commerciali e politici con l'Unione Sovietica. Questo ovviamente non stava bene soprattutto agli americani. Il vicepresidente di allora, Richard Nixon, convoca a Washington il segretario della Democrazia Cristiana di San Marino e gli dice di muoversi perché i tentativi blandi, secondo loro, che aveva fatto Scelba non avevano portato a nulla e che quindi doveva arrivare alla conclusione. I fatti di Rovereta o del Capannone con il fantomatico governo determinano la caduta della giunta di sinistra e l'instaurazione di questa nuova giunta che riescono i democristiani a costituire comprando tre socialisti. Io sono bresciano, come avrete capito, mio padre vecchio comunista mi diceva sempre che la Democrazia Cristiana era la peggiore, ma i socialisti erano proprio degli sporcaccioni. E l'abbiamo visto poi con Craxi, con tutta una serie di cose che non vi sto a descrivere, che conoscete e sapete bene. Però ci sono altri elementi di una gravità e di una chiarezza notevole relativamente a questa attività che l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno compie, affiancato da altre associazioni, organismi e partiti. Secondo me veramente molto, molto gravi e molto importanti. Nel 60, nel giugno del 60, il ministro Tambroni mette in campo la cosiddetta operazione Ippocampo, il sequestro del Presidente della Repubblica Gronchi. È una cosa di cui pochi ne parlano, pochi si ricordano. Io stesso ne avevo letto e sentito, poi ho cercato di approfondire e ho trovato delle informazioni abbastanza interessanti, anzi direi molto interessanti, anche a proposito poi del Circolo 22 marzo di Roma, in un libro di Renzo Vianni, 30 anni di regime bianco. Renzo Vianni, classe 1923, ex partigiano aggregato al 23° battaglione Garibaldi che operava nel Pisano, nella Versilia, professore di scuola media, fino al 1956 militante iscritto al Partito Comunista e da lì in poi invece una delle figure più rappresentative dell'anarchismo pisano. Ha scritto una serie di pubblicazioni sulla resistenza nelle Apuane e nei dintorni, anche dei romanzi, e questo libro che parla dettagliatamente di questo tentativo di sequestro di Gronchi da parte di Tambroni. Ci sono state sempre a cavallo, prima Pippo sottolineava come ci sia una concomitanza o un intersecarsi di date, ed è veramente impressionante. È impressionante perché il 26 e il 27 maggio del 60 viene tenuto quello che è il primo convegno anticomunista che si svolge in Italia. Lo organizzano i comitati Luigi Sturzo, quindi la Democrazia Cristiana, e il titolo è La liberazione dal socialcomunismo. Si svolge presso la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino, il cosiddetto Angelicum a Roma. E qui incominciamo a vedere che ci sono tutta una serie di personaggi, anche della cosiddetta sedicente sinistra DC, che incominciano a fare e a dire e a proporre quella che poi diventerà un chiodo fisso in quasi tutti, ma direi proprio in tutti questi convegni, la guerra psicologica, perché lì addirittura c'è stato qualcuno al convegno dell'Istituto Polio del 65 che ha detto non bisogna farsi condizionare, scusate, da quella che è la reazione emotiva della popolazione, delle masse, anche se ci sono dei morti e dei morti indiscriminati, non importa, bisogna andare avanti. Nel 61 a Roma, praticamente i centri studi NATO, coordinati dalla Suzanne Labine, Ivan Matteo Lombardo, Randolfo Pacciardi, che nomi che ricorrono in quasi tutti questi convegni, poi anche in quello del polio, organizzano un altro convegno. E conferenza internazionale sulla guerra politica dei Soviet, la minaccia comunista sul mondo, cioè proprio avevano pianificato, non dico avessero l'ossessione, ma utilizzavano questi metodi per arrivare a quello dove volevano. A Milano poi nel 63, presso Casa Letizia, il centro studi Russia Cristiana di Romano Scalfi organizza un altro convegno, il comunismo in Italia, cause e rimedi. Per arrivare poi al 65, a quello più noto e famoso, che è quello del Hotel Parco dei Principi, dell'Istituto Polio, la guerra rivoluzionaria, e io sottolineo sempre e puntualizzo che il titolo non era solo la guerra rivoluzionaria, il titolo era la guerra rivoluzionaria, la terza guerra mondiale è già cominciata, perché si preparavano e avevano già fatto, iniziato quella che per loro era una guerra mondiale. Non mi soffermo a lungo sui contenuti, gli interventi di questi convegni, perché diventerebbe veramente molto, molto complesso. L'operazione dei manifesti cinesi viene condotta praticamente, nel senso che fungono da tacchini, dai militanti di Avanguardia Nazionale di Stefano Delle Chiaie. Graficamente i manifesti vengono redatti da un giornalista del Borghese, diretto da Mario Tedeschi, vi ricordate che ne ha parlato anche Pippo prima, e Bonanni si chiamava questo giornalista, e sostanzialmente i manifesti sono due, e il primo sono anche per certi versi ironici. Ineggiano a Mao e a Stalin, si oppongono al revisionismo del PC e dichiarano di voler fondare un nuovo partito comunista, veramente rivoluzionario. Il primo manifesto ha un'immagine di Stalin con no al revisionismo sovietico, viva Stalin. Il secondo sono truppe USA che occupano il territorio del Vietnam. In realtà è un quadro di Guttuso del 1943 che era contro l'invasione USA della Sicilia. Ovviamente Guttuso in quel periodo aveva dipinto questo quadro in ossequio alla propaganda fascista. Era una di quelle operazioni, quella dei manifesti cinesi, operazioni speciali di stabilità. Teniamo presente che questo era teorizzato nel piano B del manuale di campo 30-31, che venne anche trovato nel doppio fondo della valigia di Gelli quando fermarono sua figlia. Questa struttura che ha portato all'operazione dei manifesti cinesi, come vi accennavo, aveva come ideatori Mario Tedeschi e Federico Umberto D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati. Federico D'Amato era anche stato poi successivamente uno dei componenti del club di Berna, era un club di spioni di tutta Europa, aveva tenuto negli anni successivi una rubrica di gastronomia sull'Espresso. la stessa rivista, forse sarà un caso, che nel 67 denunciò il piano solo, direttore Scalfari, autore degli articoli Lino Iannuzzi, che poi lo troveremo nelle file di Forza Italia, e che appunto denunciò quel tentativo di colpo di Stato del 64, piano solo, perché avrebbe dovuto coinvolgere Carabinieri con l'appoggio dell'allora Presidente della Repubblica Segni. Bonanni sostiene che questa struttura, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, partecipata da ex camerati e partigiani bianchi, era un'operazione finanziata dalla CIA e passava attraverso il Ministero dell'Interno. Quindi vedete come sono partiti da lontano, addirittura dopo la Seconda Guerra Mondiale, vi ho fatto l'esempio di Portella della Ginestra, e poi sono arrivati a questa operazione di false bandiere, come le chiamano in gergo. Era un'operazione di guerra psicologica, volevano attribuire la responsabilità, ma in realtà chi la conduceva aveva altri scopi e soprattutto altre collocazioni. Sto cercando di limare quello che avrei voluto dire, perché altrimenti la questione del circolo 22 marzo era un circolo che Renzo Vanni, anarchico, definiva pseudo-anarchico, perché al suo interno c'erano una quindicina di anarchici, fra cui Valpreda, Mander e altri, ma c'erano anche Stefano Delle Chiaie più esternamente, ma più internamente Mario Merlino, e soprattutto c'era un infiltrato del SID, e quindi svolgevano tutta una serie di attività che poi hanno portato alla strage di Piazza Fontana.